E un dato di fatto indiscutibile è che esistano la verità e l'errore. Sta a noi riuscire ad individuare l'uno e l'altra. Da un certo punto di vista non è indispensabile conoscere l'errore, perché una volta imbattuto sulla buona strada non ho bisogno di conoscere tutte le altre strade che non portano a destinazione. Ma rimane sempre comunque il pericolo, finché non si è arrivati, di pensare, illudendosi, di camminare sulla buona strada. L'inganno è sempre alla porta. Perciò è buono conoscere la verità, ma è molto meglio anche conoscere dove sta l'errore, perché la conoscenza di questo dà maggior certezza alla verità. Questo principio, applicato nel campo della fede, ha un valore enorme, poiché indiscutibilmente esiste una sola verità, e poiché di religioni o fedi ce ne sono tante, è evidente la necessità di conoscere la vera fede, ma purtroppo la risposta non è così facile. Ogni religione professa di essere la vera, ogni fede esclude le altre. È vero che viviamo in un periodo dove vi è la tendenza a formare una sola fede, dove si cerca di trovare i punti in comune, ma di fatto questo è un inganno al quale l'uomo vuole sottostare. I musulmani sostengono che la loro fede è la sola vera fede. I testimoni di Geova predicano che solo appartenendo alla loro religione si è salvati. Il cattolicesimo sostiene di essere la vera Chiesa. I cristiani predicano l'unicità di Gesù e che solo lui salva. Com'è possibile sostenere che tutti hanno ragione o trovare un punto in comune per formare una sola fede? Se la verità è una per forza di cose, qualcuno è in errore. Come se ciò non bastasse, di tanto in tanto sorgono nuovi movimenti religiosi o nuove fedi, alcune apparentemente giuste, altre palesemente sbagliate, chiamate sette. Viene definita setta un'associazione di persone che seguono e difendono una particolare dottrina religiosa, ma questa definizione non dice molto, perché tutti i religiosi da un certo punto di vista appartengono a delle sette. In un paese musulmano i cristiani si manifestano come una setta, come in un paese di cultura cristiana i testimoni di Geova mostrano di essere una setta. Chi ha ragione? Com'è possibile individuare una setta nata di recente o una religione di vecchia data e ritenuta vera, ma che in effetti è una setta? Questo studio ha lo scopo di dare una risposta. La prima caratteristica di una setta è la sua esclusività. Detta così si salva solo l'induismo, perché mentre ogni seria fede o setta è esclusivista, con i suoi 300 milioni di dei l'induismo non è certamente una religione esclusivista. Ma il senso è un altro. Una setta ritiene che vi è la possibilità della salvezza solo se si appartiene al loro gruppo. Vennero a casa mia due rappresentanti dei testimoni di Geova, presentandomi con il loro consueto ardore la loro fede. Alla fine del loro discorso mi fecero comprendere che se volevo ottenere la salvezza e il premio di Dio dovevo appartenere alla loro associazione. La mia risposta fu decisa e precisa. Io sono nato e cresciuto con una fede cattolica romana, ed ora non sono più cattolico romano. Sapete perché? Per la stessa ragione che ora rifiuto di appartenere all'organizzazione dei testimoni di Geova. Il cattolicesimo romano sostiene che la salvezza è solo appartenendo alla loro chiesa, e voi sostenete che la salvezza è solo appartenendo alla vostra organizzazione. Per quanto ho capito, il vero ed unico Dio ha fatto sapere che la salvezza non sta nell'appartenere ad una religione, ma chiunque pone fede in Cristo, quale Salvatore e Signore, ha la certezza di essere perdonato da tutti i peccati e ottenere ora la salvezza della propria anima. Infatti così sta scritto nella parola di Dio: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quel chiunque si riferisce a tutti, perciò per avere la vita eterna non è necessario appartenere ad una religione, diversamente Dio lo avrebbe detto. Questa risposta chiuse la nostra conversazione. La verità che la salvezza di Dio è universale, cioè non è esclusiva di un gruppo religioso, mette in evidenza il lato settario delle religioni esclusiviste come il cattolicesimo romano e l'Islam. È vero che il cristianesimo è principalmente esclusivista, e se non è esclusivista, non è più la vera fede cristiana, ma il suo esclusivismo non consiste nel ritenere salvato solo chi appartiene ad un gruppo religioso quale cattolico, protestante o ortodosso, ma nell'affermare che solo Gesù Cristo salva. L'esclusività del cristianesimo è centrata su di una persona e non su un certo gruppo di appartenenza. Se oggi io mi ritengo un figlio di Dio salvato per grazia dal sangue di Cristo, non è perché per forza di cose faccio parte di una comunità, ma perché ho avuto l'esperienza di comprendere di essere un peccatore perduto e ho trovato nel sacrificio di Cristo il perdono di tutti i miei peccati mediante un atto di fede attiva. Dunque la prima caratteristica di una setta è pensare di essere i soli eletti e tutti gli altri perduti. La seconda caratteristica di una setta è la mancanza di una prospettiva storica. Molti gruppi apparsi sulla scena in questi ultimi secoli dichiarano sfacciatamente che soltanto loro conoscono la verità e che tutti dovrebbero seguirli. Ma la verità c'era anche prima che questi gruppi sorgessero. Coloro che amano la verità sono sempre esistiti. Perciò non è impossibile affermare in un momento della storia di avere il monopolio della luce spirituale. In queste sette cadono coloro che sono amanti delle novità, coloro che hanno una ripulsa verso gli insegnamenti religiosi ricevuti e per prurito di udire abbracciano ciò che piace loro di più. La scoperta di una verità misteriosa e segreta è un boccone prelibato e per questo non solo le persone a caccia di novità scelgono una setta religiosa, ma si buttano anche nel campo dell'esoterismo. Chi abbraccia una setta pensa di essere il sale della terra, di contenere tutta la verità e al quale è promesso un sapere segreto. In definitiva, la setta è l'alternativa di un cuore che non è retto nei confronti di Dio. Ora noi siamo abituati a pensare alle sette recenti, ma questo modo di ragionare è solo questione di prospettiva, perché le sette recenti fra 2000 anni non saranno più tali. Perciò, le religioni che ora sono millenarie possono essere delle sette. Una di queste è certamente l'Islam perché è nato circa nel 600 d.C. Se la vera religione è nata 600 anni dopo la nascita di Cristo, coloro che hanno vissuto prima che cosa professavano? È vero che l'Islam ritiene che la sua fede abbia avuto inizio dalla creazione, ma è un tentativo sforzato per avere una prospettiva storica e per dare a Maometto l'autorità di essere l'ultimo profeta. Perciò, chi è serio nella ricerca di una religione, o vuole verificare se la sua fede è quella giusta, deve compiere un piccolo sforzo e indagare la prospettiva storica della sua fede. La fede dei primi cristiani era edificata sull'insegnamento degli apostoli e avevano come pietra angolare Gesù Cristo. Dopo 2000 anni, il fiume della fede cristiana si è inquinato ed è più che mai opportuno ritornare alla fonte. Il cristiano è colui che considera autorità apostolica gli apostoli stessi e non i presunti successori degli apostoli. Nessuna persona che pone la sola fede nella testimonianza dei profeti e degli apostoli diventerebbe di religione cattolica romana, ortodossa o protestante. La prospettiva storica non è un elemento da sottovalutare. Una terza caratteristica di una setta è quella di dare troppa importanza a questioni secondarie. Poiché la Bibbia è composta di libri scritti da persone ispirate da Dio, e poiché lo scopo di questi libri è quello di rivelare all'uomo che è perduto e che Dio ha provveduto la salvezza tramite l'opera di Cristo, ogni altra verità che non si collega a Cristo, cioè la sua divinità e umanità, la sua redenzione, la sua Chiesa, la Trinità, devono passare in secondo ordine. L'Apostolo Paolo mise in guardia Timoteo, suo figlio spirituale, contro i falsi dottori, affermando queste parole. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine le quali producono controversie piuttosto che l'opera di Dio che è fondata sulla fede, 1 Timoteo 1.3.4. Una setta punta esclusivamente su particolari espressi nella parola di Dio per farne il proprio cavallo di battaglia, a costo di creare controversie. Chi cerca la vera fede dovrebbe trovare la risposta non alle proprie curiosità, ma il più grande interrogativo che l'uomo possa porsi, e cioè cosa devo fare per essere salvato. E questa è la domanda principale perché, come disse Gesù, che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? E proprio un grande atto di stupidità occuparsi di cose passeggere per poi perdere il più grande obiettivo della vita, e cioè quello di ottenere la vita eterna. Perciò è molto importante conoscere una setta, perché questo può gettare luce sulla fede che si professa. Se appartieni ad un gruppo che pensa di essere il solo a possedere la verità, se è nato di recente o non ha una prospettiva storica, o non si batte per delle ragioni fondamentali quali la salvezza dell'anima, allora puoi essere certo di appartenere ad una setta. Il cristianesimo e di conseguenza i veri cristiani non hanno nessuna di queste caratteristiche settarie perché loro non posseggono la verità, ma additano e seguono la sola verità in Cristo Gesù. I cristiani hanno una prospettiva storica le cui radici affondano nei primi versetti della Bibbia. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Inoltre i veri cristiani hanno come messaggio e obiettivo primario la salvezza delle anime. Perciò le sette mettono in evidenza che il cristianesimo professa il giusto. Chi è alla ricerca ora non ha più scuse. Ottobre 2005, Ellero.